Shatatava, Babuse, Shatatava, Babuse, Pupatelle, Babilonia, Arabideca, Arabideca, Begosh, Chimori e Chembriella, e Sarrano Macil, e Caprottella, la strage San, la strage San Daniele, il Nugolotto, Vullotiel, Aizzatava, Aizzatava, Guaglione, Picciarelle, Malasorta, Tanta devozione a culo, Chiova Santa, e Sarrana Mattana.